Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sette 11 minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo, non per commentarlo, sapete già l'opinione di chi vi parla, sull'effetto boomerang e anche l'inopportunità dello sciopero della pubblica amministrazione, che chiaramente i lavoratori della pubblica amministrazione scioperano a sostegno del rinnovo del contratto scaduto a fine 2018, e come ha chiarito i sindacati, anche per un piano di assunzione e maggiore sicurezza nei luoghi di lavoro. Tutto bene, però ricordo che il 46% del pubblico impiego dei dipendenti è in smart working e che in questi giorni in Parlamento è in discussione una manovra che aumenta di 400 milioni di euro il fondo per il rinnovo del contratto, del nuovo contrattuale degli statali, portando nel triennio 2019-2021 a 3,8 miliardi di dotazione della PA centrale e 6,7 miliardi il conto complessivo dei nuovi contratti. Si tratta di un aumento medio di 108,95 euro. Capisco tutto, tutti gli elementi, però ritengo, continuo a ritenere completamente inopportuno lo sciopero, anche quando, a maggior ragione, quando abbiamo un mondo di partite IVA, liberi professionisti, ma anche settore privato, mondo del commercio, del turismo, che è in ginocchio. E sappiamo che nella pubblica amministrazione, pur un contratto che è vero, non è rinnovato, che è scaduto da fine 2018, ma sappiamo anche che nella pubblica amministrazione in questo momento c'è un problema di efficienza in alcuni uffici e settori, perché è inutile girarci attorno, lo smart working non è la stessa cosa che avere gli uffici aperti, dall'anagrafe al catasto potremmo andare avanti. E in secondo luogo, che per fortuna nella pubblica amministrazione non vi è stato un licenziamento. So benissimo che si parla anche di medici, insegnanti, quindi le categorie che spesso citiamo come quelle più, diciamo, importanti in questo momento, infermieri, personale sanitario, però non si parla solo di loro. Comunque, tra l'altro, la ministra Dadone ha detto, insomma, l'effetto dello sciopero è riduttivo se si riduce ai soldi. I sindacati hanno definito le sue parole inaccettabili. Lo sciopero è per le assunzioni, per i contratti e la sicurezza, e va bene, però c'è stata anche una manifestazione davanti alla prefettura. Di questo parleremo. Poi parleremo del recovery a livello europeo. Dopo quasi un mese di stallo, infatti, Polonia e Ungheria hanno trovato un compromesso con la Germania, che ha la presidenza di turno nel semestre, per sbloccare sia il bilancio europeo che il recovery fund. Ne parleremo, dovrebbe essere l'ultimo capitolo del fronte, diciamo, europeo. Poi c'è il fronte invece italiano, dove ascolteremo. Oggi c'è stato sul fronte MES, come sapete, un voto in cui alcuni parlamentari di Forza Italia si sono astenuti, e altri invece, e alcuni parlamentari dei 5 Stelle invece hanno votato contro. Però al di là di questo, poi resta il tema del forte tensione nella maggioranza ancora sulla composizione, l'organizzazione del recovery fund italiano. Quindi non solo le aree di intervento, ma anche e soprattutto chi decide che cosa. Continuiamo a parlarne, perché Italia Viva su questo non ha intenzione di mollare, e si allungano i tempi, diciamo così, per arrivare a una formulazione definitiva. C'è una forte opposizione in Italia Viva, ma anche in alcune parti del PD e dei 5 Stelle, all'idea, diciamo, della piramide, chiamiamola così, da affiancare i ministeri, e quindi l'idea dei tre mini, Presidente del Consiglio, Ministro Gualtieri, Ministro Patuanelli, e sotto i sei manager e sotto ancora 90 più o meno incaricati, una task force di 90 persone. La critica è che si rischi di paralizzare l'intera attività, che diventi un'altra struttura, una task force di cui non si sentiva la necessità, e l'invito è a utilizzare i ministeri già esistenti. Su questo ricorderemo anche quello che capita in Europa, perché è sempre utile guardare cosa fanno Francia, Spagna e Germania. Devo dire che l'idea di un così di una task force parallela all'esistente non esiste in nessun paese. Anticipo già la Francia, l'abbiamo parlato molte volte, ha nominato un altro commissario, Bayrou, che è circondato da tecnici, per lo più imprenditori, ricercatori, ma sono solo 15, e fa riferimento al Ministero dell'Economia, quindi al Ministro Le Maire. La Spagna è il piano viene deciso dal Consiglio dei Ministri. In Germania, che chiederà però molti meno soldi, avrà molti meno soldi, 22,7 miliardi, ma ha varato una manovra da 130 miliardi con 96 miliardi di nuovi debiti, c'è un comitato di coalizione formato dai rappresentanti dei partiti di governo, quindi CDU, CSU e SPD, e poi hanno già dirottato i fondi su infrastrutture digitali, uscita del carbone. La Germania è molto avanti. E devo dire che anche in Olanda, per esempio, il dossier del recovery è tutto in mano al governo. Però guardando Francia e Spagna, il modello è diverso. Ne parleremo nella seconda ora del programma. 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24, la diretta su Facebook. Allora, sta facendo discutere in Italia il fatto che ci si è accorti che un bambino di 4 anni a inizio novembre, adesso sono andati a controllare gli esami, aveva già contratto il coronavirus. Perché lo dico? Perché mentre continuano ad arrivare indicazioni di un coronavirus che era già in circolazione ampiamente prima di quando la Cina ha comunicato, e quindi il problema è il focolaio a Wuhan, e qui stiamo parlando, prima si diceva dicembre, adesso andiamo indietro a novembre, con il sospetto molto forte, lo dico in maniera molto chiara, che la Cina fosse al corrente mesi prima di lanciare l'allarme e abbia appunto taciuto la diffusione del virus, tant'è che appunto si registrano già casi, andando a guardare gli esami ex post in Italia a novembre, aggravando la situazione, perché è chiaro che prima lanci l'allarme, prima poi dai la possibilità di prendere contromisure. No, lo dico per un motivo molto semplice, perché in Cina sta continuando una campagna di totale disinformazione sull'origine del coronavirus. L'obiettivo dei cinesi è cercare di dimostrare in tutti i modi che non è nato a Wuhan. Prima hanno accusato i prodotti surgelati provenienti da vari paesi, ci hanno messo di mezzo l'India ma anche gli Stati Uniti. Adesso ci sono vari social in Cina hanno estrapolato alcune frasi, tagliandole, diciamo, per scaricare la responsabilità del virus sugli altri. Un esempio: Alexandre Kekulé, che è il direttore dell'Istituto per la ricerca sulla biosicurezza di Halle in Germania, a lui mentre stava dicendo una frase in cui diceva il coronavirus trovato nel nord Italia, hanno estrapolato la frase e il risultato è che il titolo è "La Cina è innocente, il coronavirus", cioè, la frase sembra suggerire che il coronavirus addirittura è nato in Italia. Lui ha detto poi, quando ha scoperto la cosa, questa è pura propaganda, io non ho mai detto una cosa del genere, anzi lui sostiene l'esatto contrario, ma la dice lunga sulla campagna del Partito Comunista Cinese per cercare di contenere i danni della reputazione alla Cina. Ripeto, prima l'India, poi i prodotti surgelati, che comunque non spiegherebbero perché si è esploso nella città di Wuhan, ma tutto, poi addirittura oltre che l'Italia anche la Spagna o altrove, insomma tutto pur di non accettare la cosa che da più parti abbiamo chiesto, c'è una commissione d'inchiesta internazionale, come sarebbe avvenuto per qualunque altro paese, per capire che cosa è successo a Wuhan. Perché lì è arrivato l'allarme, e capire se è il wet market o quant'altro. Continuare a usare questi mezzucci, lo dico in maniera molto chiara, dovrebbe far riflettere anche la nostra classe politica su che rapporti intrattenere con la Cina. Certo che la Cina è un partner commerciale importante, però attenzione, perché immaginate se fosse successo quello che è successo a Wuhan in un altro paese occidentale, avremmo chiesto a gran voce subito una commissione d'inchiesta per evitare che si possa ripetere, e anche per vedere eventuali responsabilità del governo cinese nel arrivare così tardi a dichiarare l'allarme, provare a rassicurare l'OMS, accusata dagli Stati Uniti di attività quasi di collusione con la Cina, insomma, mettere in guardia solo alla fine, dopo che aveva già messo in campo un insieme di strumenti di protezione. Ripeto, andate a vedere cosa lo scrive oggi il New York Times, è incredibile. Sembra veramente l'invasione delle cavallette di John Belushi, ma non la mando in onda oggi. Qualunque scusa, basta non dire che è nato in Cina. Allora, se da un lato si dovrebbe, e ne parleremo, dovrebbe essersi raggiunto l'accordo tra Polonia, Ungheria e la Germania, per quello che riguarda la Brexit invece vi sarà una cena di lavoro tra la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e il Premier britannico Boris Johnson questa sera alle 20 per arrivare a ricucire le divergenze sui tre dossier rimasti aperti, come spiegava ieri i nostri microfoni Leonardo Maisano: il level playing field, la pesca e la governance. Johnson dice: saremo prosperi con il deal, con l'accordo o senza accordo, quindi come fa il Canada da un lato oppure come fa l'Australia dall'altro. E vabbè, invidio un po' la sicurezza di Johnson. Andiamo avanti. Per quello che riguarda l'Italia, l'asta di botta un anno, il tasso è sceso allo 0,49, quasi meno 0,50%. Le moratorie sui prestiti, quindi mutui ma anche prestiti delle imprese, hanno toccato i 302 miliardi per un totale di 2 milioni e 700 mila domande, mentre le richieste di garanzia per i finanziamenti, quelli garantiti, hanno toccato la cifra di 114 miliardi, ma anche qui la stragrande maggioranza riguarda i prestiti fino a 30 mila euro. Del MES, vabbè, sentiamo anche Conte sul MES, che ha detto: grazie all'Italia è stata migliorata la riforma. Ricordo che quello su cui oggi si discuteva era il MES, come abbiamo spiegato molte volte, quello nato nel 2012 per aiutare i paesi che non riuscissero più a trovare un finanziamento sul mercato, e fa quasi da intermediario il MES, dice: vabbè, li raccolgo io e poi li giro ai paesi. Però quel MES lì, che è stato parzialmente in alcuni punti ritoccato, prevede anche forte condizionalità al paese che vi aderisce. Nulla c'entra col MES pandemico, che prevede come unica condizionalità quello di utilizzare i soldi per le spese sanitarie. Ma votare il sì alla riforma del MES non vuol dire utilizzare il MES, come abbiamo chiarito anche ieri, ed è uno strumento che esiste dal 2012, l'hanno usato Portogallo, Cipro, Spagna, Grecia. È vero che quel MES lì cosa dice? Dice: tu sei messo così male come Stato che non riesci a raccogliere soldi sul mercato se non a tassi insostenibili di interesse, li raccolgo io al posto tuo, quindi do una garanzia più forte, ma a questo punto ti chiedo però di fare un insieme di riforme, di tagli alla spesa, quel MES lì che già esiste dal 2012. Comunque, sentiamo Conte sulla riforma del MES, migliorata grazie anche al contributo italiano. Come è noto, la riforma del MES, approdata sul tavolo dell'Euro Summit nel dicembre 2019, incorporava l'introduzione del backstop comune al fondo di risoluzione unico, a partire però dal 2024. Il governo italiano ha agito per ottenere l'introduzione anticipata di tale meccanismo, sul presupposto di rispettare alcuni obiettivi di riduzione del rischio bancario. Originariamente era previsto che si procedesse in sequenza: prima la riforma del MES, poi la valutazione dei rischi, infine l'introduzione anticipata del Common Backstop attraverso la riforma dell'accordo intergovernativo che regola il trasferimento e la messa in comune dei contributi del MES al fondo di risoluzione unico. Grazie sempre al contributo italiano, l'Eurogruppo ha raggiunto un'intesa che consentirà di procedere in parallelo. Sarà ora compito dello Euro Summit sancire l'accordo. E poi sempre Conte dice: resta la responsabilità delle Camere sulla ratifica del trattato, e ha detto devono essere riconsiderate e in maniera radicale sia la struttura che la funzione del MES, affinché sia trasformato in uno strumento diverso. Ancora ha detto la maggioranza Conte serve coesione per battersi in Unione Europea, è un messaggio alla sua maggioranza chiaramente, e mentre il tavolo di confronto con le opposizioni resta aperto. Il governo ha bisogno anche della massima coesione delle forze di maggioranza per continuare a battersi in Europa, per continuare a svolgere il suo lavoro. Il confronto dialettico tra le forze di maggioranza, all'interno delle forze di maggioranza, è sicuramente un segno di vitalità e di ricchezza, ma è senz'altro salutare che sia fatto con spirito costruttivo, che non ci faccia disperdere energie, che non ci distragga dagli obiettivi della nostra azione. E siamo tutti chiamati, rispetto a queste sfide, a compiere ciascuno per il proprio ruolo uno sforzo collettivo per essere all'altezza di questo compito. Spesso in quest'aula io ho rivolto un appello alle forze di opposizione, appelli in particolare all'unità e al dialogo pur nella distinzione di ruoli. Devo riconoscere che in alcuni passaggi questi appelli hanno trovato ascolto. Ribadisco quindi già quanto ricordato in altre sedi, in altre occasioni. Il tavolo del confronto da parte del governo con le opposizioni rimane sempre aperto. Allora, poi cosa è successo? Ha votato la Camera la risoluzione di maggioranza, 314 favorevoli, 239 i contrari, 9 gli astenuti. Per quello che arriva però dai 5 Stelle sono 13 deputati che hanno votato no alla risoluzione di maggioranza, qui vanno aggiunti 9 deputati che appunto non hanno preso parte al voto. E poi l'Italia Viva ha firmato la risoluzione di maggioranza, mentre in Forza Italia non hanno votato 16 deputati, più conosciuti sono Brunetta e Polverini, quindi andando così controcorrente rispetto alle indicazioni arrivate dal gruppo di Forza Italia, che erano identiche a quelle di tutto il centrodestra, Lega e Fratelli d'Italia. Poi Claudio Borghi della Lega ha chiesto di togliere le deleghe subito al ministro Gualtieri perché ha tradito, è stato il tradimento e l'infedeltà di Stato prevedono 15 anni. Dovrebbero essere tolte le deleghe al ministro Gualtieri perché ha dato l'assenso alla riforma del MES senza alcun mandato parlamentare. Allora, il ministro De Micheli oggi in un evento organizzato dalla Conferenza delle Regioni, della Confindustria ANCI, ha ricordato che sono stati sbloccati in 14 mesi 17 miliardi di euro di cantieri grazie alla volontà politica, non c'era nessun atto amministrativo che fosse insormontabile. Nessun atto amministrativo insormontabile nell'ambito della legittimità di un progetto, che è la legittimità del finanziamento di un progetto. Dunque, poi vedo altri messaggi su WhatsApp, qualcuno mi chiede ma cosa c'entrava parlare del bambino positivo rispetto alla Cina? No, allora forse non mi sono fatto capire. La Cina continua, leggetevi anche altri giornali, a trovare scuse su dove è nato sto, invece che aprirsi e dire bene accettiamo una commissione internazionale di inchiesta per capire che cosa è successo a Wuhan, che cosa è successo in quel mercato, è il mercato, ci sono altre, una cosa in cui tutto il mondo poi si possa fidare. La Cina non solo non ha voluto raccontare quello che stava capitando in tempo utile, diciamo così, perché ormai è lì, citavo il bambino, nel novembre 2019 un bambino di 4 anni aveva sintomi del morbillo, invece era Covid, ma non lo si sapeva perché appunto eravamo a novembre. C'è uno studio dell'Università Statale di Milano, dal tampone viene fuori che praticamente questo bambino era positivo almeno 3 mesi prima del cosiddetto paziente 1, quello di Codogno. E la Cina continua invece a scrivere sui social, sui titoli, che il virus è nato o dai surgelati arrivati dal Brasile, o dall'India, o dalla Spagna, adesso l'Italia, tagliando frasi e strappando frasi mai dette, perché se tu tagli un pezzo di una frase che non dice quello ma sembra che dica quello, pur di convincere la sua opinione pubblica, perché evidentemente Xi Jinping è in difficoltà, che non è colpa della Cina, il virus è arrivato da qualche altra parte. Allora a sto punto mando le cavallette, perché mi sono rotto. Ero rimasto senza benzina, avevo una gomma a terra, non avevo i soldi per prendere il taxi, la tintoria non mi aveva portato il Tide, c'era il funerale di mia madre, era crollata la casa, c'è stato un terremoto, una tremenda inondazione, le cavallette, non è stata colpa mia, lo giuro su Dio! Eh sì, qualunque elemento è buono, ma se il Covid fosse nato in un altro paese, ma ragazzi, ma stiamo scherzando, cioè, ci ricordiamo cosa è successo a Wuhan tra gennaio e febbraio, hanno chiuso la città, e poi qualcuno, ma io non voglio entrare nel fatto che pochi cinesi si ricoverano in Italia, a me non interessa questo, poi sono... mi interessa capire politicamente e anche economicamente la posizione della Cina, che rigetta ogni responsabilità, addirittura non solo nella gestione disastrosa, nella comunicazione disastrosa, nel fatto che l'OMS fosse distratto in quei giorni, visto che all'inizio neanche, no, non si trasmette a metà gennaio, non si trasmette da uomo a uomo, ma adesso inizia un'operazione lenta, diciamo, no, di spostamento dell'attenzione. Guardate che è nato in Italia, e come no? Come no? O in Spagna o in India. E questo è il problema cinese, loro non vogliono ammettere di sbagliare, lo dico perché conosco quel popolo. Pur di non ammettere di sbagliare, sono pronti a fare qualunque cosa. Però non dimentichiamoci questo, perché quando ritorneremo a parlare del Silk and Belt Route, dopodiché, insomma, io non ho rapporti con l'ambasciata cinese e vorrei continuare a non averle, cioè averne normali. Dai, andiamo sul meteo. Focus Economia. Dunque, continuo a scrivere. Guardate, la spiego poi, adesso andiamo avanti. Hanno preso il tampone. L'Università Statale di Milano ha pubblicato sulla rivista Emerging Infectious Diseases. Hanno preso il tampone fatto a novembre, un bambino di 4 anni, il 21 novembre, che stava male, aveva tosse e rinite. Pensavano fosse morbillo. E sembravano sintomi del morbillo, invece si sono accorti, riprendendo il tampone, che aveva sviluppato il Covid-19. E questo vuol dire almeno 3 mesi prima del paziente nuovo di Codogno. Comunque, se non voglio parlare di questo, dico semplicemente che mentre noi scopriamo questo, non è la prima, ho raccontato anche dei test anti-Covid arrivati nel corso di una manifestazione, di un evento. Evento che si è tenuto a maggio giugno, quando si poteva fare, e si sono accorti che la data era indicata già da novembre 2019, come faceva la Cina. Arrivavano dalla Cina i tamponi per il Covid già da novembre, dai, su. A Wuhan ad ottobre ci sono state le Olimpiadi militari, qualcuno se lo ricorda? Ognuno pensi come vuole. Andiamo invece dalla Cina alla nostra pubblica amministrazione. Non riesco a rendere meno pindarico il volo, se non, diciamo, sto zitto. Allora, oggi lo sciopero della pubblica amministrazione, molto criticato anche dal sottoscritto, si poteva fare un altro tipo di agitazione. I sindacati dicono: attenzione, noi scioperiamo non solo per i soldi, ma anche per un piano di assunzione e una maggiore sicurezza dei luoghi del lavoro. Però oggi Gianni Trovati racconta un panorama leggermente diverso. Certo che tutto è migliorabile, certo che il contratto era scaduto a fine del 2018, è certo che lo sciopero è un diritto e ci mancherebbe. Altra cosa è l'opportunità di dichiarare uno sciopero mentre hai mezzo paese che è in ginocchio, dico mezzo come espressione, hai un'incertezza fortissima sul futuro, hai le partite IVA, hai i lavoratori stagionali, hai il mondo del commercio che non sa da che parte girarsi e tu oggettivamente sei al 46% di smart working e soprattutto per fortuna non hai avuto un licenziamento. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Oggi non mi parli del MES né del recovery, beh vediamo dopo che ormai, però era per farti divertire di più. Allora, che cosa, tu l'hai scritto oggi su Sole 24 Ore, ma non voglio, diciamo così, bruciare. Che cosa c'è quanto a soldi? Perché noi abbiamo detto l'aumento medio sarebbe di 109 euro. È vero che il governo si è distratto sugli statali? Beh, allora, si è talmente distratto che in questa finanziaria, nonostante in questa legge di bilancio, nonostante il contesto che ricordavi, ha messo altri 400 milioni per il rinnovo dei contratti degli statali. Dico altri 400 milioni perché, come avviene sempre tutte le volte, il fondo per il rinnovo del contratto del pubblico impiego viene sviluppato, diciamo così, su più manovre. A questo punto, per il rinnovo del contratto della pubblica amministrazione centrale, quindi ministeri, agenzie fiscali, l'INPS, l'INAIL e così via, ci sono 3,8 miliardi. Poi cosa succede? Una regola, una legge, dice che gli altri settori della PA, le regioni, la sanità, le università, gli enti locali, eccetera, devono dare ai loro dipendenti gli stessi aumenti, come ovvio, che vengono previsti per la pubblica amministrazione centrale, trovando i soldi nei loro bilanci o, nel caso della sanità, nel fondo sanitario. Fatta la somma, viene che il rinnovo, i fondi per il rinnovo contrattuale in tutta la pubblica amministrazione sono 6,7 miliardi. Cosa vuol dire tutto questo in busta paga? In busta paga vuol dire un aumento del 4,07%, il calcolo è ufficiale, non l'ho fatto io, l'ha fatto il Ministero dell'Economia, del 4,07% per un periodo, il 2019-2021, questo è il triennio contrattuale, in cui l'indice dell'inflazione, quello che dovrebbe guidare i rinnovi dei contratti degli statali, perché qui parliamo di stipendio base, nello stesso periodo l'inflazione, sappiamo, è piatta, è stata dell'1,4%, quindi l'inflazione è stata dell'1,4%, il rinnovo è del 4,1%, hanno invertito i fattori e in questo caso il risultato ovviamente cambia. È il rinnovo del contratto più ricco della storia recente, anche perché se ne sono fatti pochi certamente, ma l'ultimo rinnovo, quello di Renzi per capirci, diede 85 euro medi di aumento e costò a livello complessivo circa 5 miliardi, quindi 1,6 miliardi, 1,7 miliardi in meno rispetto ai soldi che ci sono oggi. Ora, tutto naturalmente, lo dicevi correttamente tu, è migliorabile, non è esattamente una situazione disastrosa, soprattutto se confrontata con il contesto. Questo sciopero, diciamo questa cosa che è importante, è stato utilizzato in verità dai sindacati, non tutti, i tre principali, CGIL, CISL, UIL, all'interno di un confronto più ampio col governo, hanno usato il pubblico impiego come arma politica, dai segnali che si hanno, suscitando qualche perplessità anche all'interno dello stesso pubblico impiego, perché insomma il contrasto con la situazione in generale è abbastanza evidente. No, ma tu hai fatto, io ti ho lasciato parlare volentieri, perché hai ricordato che i soldi poi vanno commisurati, l'aumento, il 4% a quella che è la situazione. L'inflazione non c'è e non ci sarà per un po', e comunque, stando anche al tasso di inflazione, l'aumento è ben al di sopra del tasso di inflazione. È l'aumento più consistente dei pochi rinnovi fatti rispetto anche a quello di, appunto, di Renzi. Quindi, per carità, uno può dichiarare un'agitazione, può dichiarare di non essere contento perché ancora non c'è un piano di assunzioni di maggior sicurezza nei luoghi di lavoro che non firma, ma fare uno sciopero Nel momento in cui metà paese è in ginocchio, il settore privato diciamo, non sa che cosa lo aspetta. L'efficienza della pubblica amministrazione è altissima, diciamo, nel mondo sanitario, infermieri e medici in prima linea. Cerca di correre ripari nel mondo dell'insegnamento, degli insegnanti, perché sappiamo che la DAD non tutti la sanno fare allo stesso modo e comunque non è la stessa cosa. Ed è generalmente più bassa del solito in altri uffici, diciamo, della pubblica amministrazione. Vale sia per i catasti che per gli archivi, che per tutto. Non è solo Roma, non è solo lo Stato, vale anche per le regioni, le province, i comuni. Ecco, fanno sciopero dopo che prendi l'aumento più forte degli ultimi anni, invece che chiedere, insomma, che venga riaperto il tavolo, veramente non si capisce. Vedo però che la Furlan, come CIS, Bombardieri, come Will, dicono lo sciopero per assunzioni, contratto e sicurezza, e come no. La dignità passa anche per il rinnovo dei contratti, si passa anche per l'efficienza della pubblica amministrazione, l'introduzione del merito e la possibilità anche di premiare chi lavora bene e mandare a casa chi lavora male. Grazie a Gianni Trovati, però questi sindacati se lo dimenticano sempre, soprattutto se parli con i sindacati della pubblica amministrazione. E va a danno dei bravi insegnanti, va a danno dei bravi funzionari, va a danno dei bravi impiegati e va a vantaggio di chi non ha voglia di fare granché, non voglio usare termini volgari, traffico. Focus Economia. Mi arrivano molti messaggi al 349-238-6666 su, per esempio, gli uffici postali che stanno lavorando a ranghi ridotti, ma è chiaro che lo smart working nella pubblica amministrazione, soprattutto quando ha dati sensibili, è quasi impossibile che equivalga alla presenza fisica. Poi non so neanche a indagare sulle reali connessioni. Poi molti, qualcuno mi scrive, hanno beccato il Covid-19 nelle acque reflue. No, io sono d'accordo in chi dice, guardate che la commissione d'inchiesta andrebbe fatta perché, qualcuno mi cita la polmonite anomala di Maurizio Sarri a rientro del Turco dal Cina, per evitare, diciamo, che si possa ripetere. È vero che negli ultimi anni tutto è arrivato da lì, SARS, aviaria e anche Covid, in cui, e io onestamente non ho più nessuna fiducia nelle autorità cinesi, come raccontano le cose. L'impressione che mi sono fatto è che loro abbiano tenuto tutto segreto nella speranza di contenerlo, quando la cosa ormai non è più contenibile, hanno avvisato il resto del mondo. Comunque, dalla Cina passiamo a Bruxelles, peste suina, sì, giusto. Allora, questa mattina ero in posta per fare un'operazione, code di persone fuori al freddo in attesa, lo so, infatti io trovo inaccettabile lo sciopero, poi le adesioni non le ho viste, lo sciopero di oggi. Allora, c'è o non c'è l'accordo sul recovery, quindi la presidenza tedesca dell'Unione Europea è riuscita a convincere, diciamo così, Polonia e Ungheria? Giro la domanda alla mitica Adriana Ceretelli, buonasera. Buonasera a tutti. Allora sì, sembra di sì, sarà formalizzato il vertice, ma sembrerebbe proprio di sì. Quindi finalmente, diciamo, la presidenza tedesca è riuscita a trovare una via di mediazione. Bisognerà leggere esattamente il testo, perché poco fa mancava ancora il via libera del gruppo, diciamo, dei duri, dei frugali, che dovevano dare il loro via libera, però mi sembrerebbe veramente, se dovessero, ecco, bloccare su questo, insomma. Che ha contribuito? Noi sappiamo che Polonia e Ungheria dicevano no, voi non potete dire che gli aiuti vengono dati solo dopo aver verificato lo stato di diritto, cerco di farmi capire dagli ascoltatori, perché avevano paura di essere inseriti nei paesi dove non era garantito lo stato di diritto. Tu ci hai molte volte ricordato che era solo una cosa più che altro formale, perché nessun paese vuole votare questo nel timore che un giorno tocchi a lui, non so come spiegare. E poi però abbiamo visto l'Europa dire: guardate che se non facciamo l'accordo andiamo avanti a 25, però in questo modo Polonia e Ungheria non avranno né i soldi del recovery ma nemmeno i soldi del bilancio europeo, che invece a loro interessano moltissimo, essendo contributori, essendo benefattori netti. Il Financial Times oggi ha scritto: la posizione di Varsavia, di Budapest, è debole e autolesionista. Cos'è? È il denaro che li ha convinti? La pecunia? Ma secondo me è sicuramente il denaro, però bisogna sempre far conto che questi due paesi, come un po' l'Est, sono un po' simili ai britannici, cioè per loro la sovranità, i loro valori nazionali sono psicologicamente molto più forti rispetto a paesi più laici come siamo noi dell'Ovest, laici in senso tra virgolette, mica soltanto religioso. Sì, certo. Cioè, quello che li ha convinti è che secondo me si sono resi conto che avrebbero rischiato veramente tanto. E la, secondo quello che si dice, poi bisognerà vedere, la dichiarazione mira a diciamo, circoscrivere in modo chiaro quali sono, diciamo, gli ambiti in cui lo Stato di diritto potrà essere invocato per sospendere i fondi europei. E mi spiego. A luglio, quando c'è stato l'accordo sul recovery fund, la formula era stata molto molto vaga volutamente, no? Però si era chiarito, perlomeno per quel che riguarda i paesi dell'est, che questo sarebbe stato applicato, questo articolo, solo relativamente ad eventuali corruzioni, malversazioni eccetera nell'uso dei fondi strutturali, quindi dei fondi europei, perché non sono solo strutturali ma sono anche quelli del recovery. Ma allora, questa interpretazione estremamente riduttiva non era certamente quella auspicata dagli europei. Allora gli europei hanno tenuto a precisare che sono violazioni dello Stato di diritto, ma secondo quelli dell'est La violazione dello Stato di diritto, così come concepita dall'ultimo accordo, quello col Parlamento europeo, era troppo estensiva, nel senso che, secondo loro, l'Europa avrebbe potuto intervenire sospendendo i fondi per qualsiasi misura, che ne so io, sullo Stato di diritto in senso lato, sulla giustizia, diciamo sulla pubblica amministrazione, su questioni comunque che non avessero nulla a che vedere con l'uso dei fondi. Ora, la dichiarazione che sarebbe quella che ha bloccato la situazione dovrebbe appunto fissare l'ambito preciso in cui si applica lo Stato di diritto. E quindi rassicuro. Ma non, scusa, preciso. No, che sono il suggerire, prego. Ecco. Cioè, allora, perché per eventuali violazioni dei diritti fondamentali europei c'è sempre il famoso articolo 7, quello che fu invocato quando venne eletto per la prima volta Haider, se vi ricordate. Sì, certo, certo, certo. Però dare maggiori garanzie anche, grazie Adriana, su quando verrebbe acceso questo Stato di diritto a Ungheria e Polonia. Adesso al GR24 e poi torniamo invece sul tema del recovery plan, ma questa volta sul fronte casa nostra. 349-238-6666 per sms e whatsapp. Tutti i mercoledì a Due di Denari parliamo di lavoro. Parliamo di lavoro e di lavori, di formazione e di professioni, di master e di mestieri. Tutti i mercoledì parliamo di lavoro con gli esperti dell'INAP, l'Istituto Nazionale per l'Analisi delle Politiche Pubbliche. Ospite fisso di Due di Denari, con studi, ricerche, analisi e consigli. Perché parliamo di lavoro con chi si occupa di lavoro. Per capire dove va il lavoro, come cambia e come non farsi sorprendere dai cambiamenti. Programma realizzato in collaborazione con INAP, in qualità di organismo intermedio del PONSPAO con il contributo del Fondo Sociale Europeo. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Adesso arriviamo a ascoltare commenti anche sullo stallo nel recovery plan italiano. È uno stallo, diciamo, non, questa volta non tanto per la bozza e gli indirizzi anche. Attenzione, qualcuno mi ha scritto: ma come, 17 miliardi sulla parità di genere, solo 9 miliardi per la salute? No, i soldi per la salute sono di più, 9 miliardi nella bozza riguardano l'assistenza di prossimità e la telemedicina, l'innovazione, ricerca e digitalizzazione nell'assistenza finanziaria. Prima di arrivare lì, vorrei commentare rapidamente la giornata di borsa: meno 0,40% Milano, meno 0,25 Parigi, più 0,50 Francoforte, Londra invariata, Dow Jones invariato. Bene Moncler dopo l'acquisizione, che abbiamo commentato ieri con lo stesso amministratore delegato Ruffini, più 3,81%, Ferrari più 2,80, Fiat più 2,80, Biper più 2,5, Pirelli più 2 e Telecom Italia più 1,70, Fineco più 1,40 come Unicredit. Il fronte opposto c'è Inuit meno 2,40, Snam meno 1,80, Diasori meno 1,60, ma soprattutto c'è un tonfo molto pesante di ST Microelectronics, che perde l'11,90% dal peggior titolo in assoluto del listino, non solo tra quelli a maggiore capitalizzazione. Flavia Carletti, Radio Cori, Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a tutti. Che è successo a ST Microelectronics, che è quotata, ricordo, sia a Parigi che a Milano? Non a caso sono le due borse negative oggi. Oggi ST Microelectronics ha presentato al mercato, diciamo, la revisione delle sue strategie che aveva già presentato in passato. Quello che non è piaciuto proprio al mercato è stato il rinvio di un anno, dal 2022 al 2023, dell'obiettivo di raggiungere le vendite annue di 12 miliardi di dollari. L'amministratore delegato ha detto che le condizioni di mercato attuali sono molto diverse da quelle precedenti, quando erano state date le stime in precedenza. E quindi, diciamo, alla luce del fatto che c'è l'emergenza Covid in corso, c'è un rallentamento dell'economia, e quindi loro hanno detto che non riusciranno a rispettare questi target che avevano già annunciato al mercato, e quindi hanno allungato questa prospettiva di un anno. E il mercato ha oggi duramente punito il titolo per questo rinvio, perché c'era state, diciamo, sul settore dei semiconduttori nei giorni scorsi c'erano state stime positive, stime negative, alcuni altri colossi avevano dato delle previsioni positive che facevano ben sperare sull'andamento del settore, invece oggi da ST è arrivata questa ammissione dicendo: non riusciamo a raggiungere gli obiettivi che avevamo dato, li rimandiamo di un anno. E da qui si spiega appunto questo crollo di quasi il 12% nelle due borse in cui il gruppo, che appunto è italo-francese, è quotato. E questo ha determinato anche la caduta di borsa. Un'ultima battuta invece sul fronte opposto: le banche oggi bene, Biper abbiamo detto, ma non solo, anche Unicredit e banche, sì, BPM. Le banche oggi sono state protagoniste un po' in tutta Europa, a Milano in particolare queste tre sono state le tre banche più sotto i riflettori, perché si continua a ragionare sulle ipotesi di aggregazioni e di consolidamento del settore italiano, e oggi Sole 24 Ore ha detto che sta circolando, diciamo, c'è allo studio anche un'ipotesi Unicredit B, perché fino adesso, diciamo, non era mai emersa. E diciamo che una banca d'affari, insomma, alcuni ex manager di Unicredit, da qualche giorno sarebbe parlando di questa ipotesi. E anche se, diciamo, gli analisti sono abbastanza scettici che sia la soluzione migliore, anche se, diciamo, che viene vista in maniera positiva il fatto che Unicredit ha in scadenza con Aviva, che è un gruppo assicurativo, l'accordo di partnership banca assicurativa, e B perché è di proprietà di Unipol, che ha il gruppo Unipol Assicurazioni, potrebbe essere in qualche modo, Unipol potrebbe subentrare ad Aviva, e quindi questa cosa potrebbe in qualche modo avvantaggiare l'operazione agli occhi di Unicredit, anche se c'è chi crede che invece possa essere molto più probabile invece un Unicredit BPM, o comunque potrebbe essere più conveniente. Quindi diciamo che, visto che un nuovo consolidamento del settore bancario italiano, diciamo, è alle porte, o comunque ne parlano ormai tutti, si sta ragionando su quelle che potranno essere le possibili, certo, mosse, diciamo, combinazioni. E combinazioni, quindi, incastri, certo. E quindi oggi, appunto, diciamo, di fronte a questa nuova ipotesi B per Unicredit, comunque i titoli sono andati bene. Sul finale hanno leggermente rallentato rispetto ai massimi di giornata, un po' complice anche il rallentamento dell'indice generale, però comunque, appunto, sono state tra i migliori di Piazza Affari. Allora, grazie anche a Flavia Carletti. Adesso andiamo sul traffico, poi parliamo del recovery sia sul fronte della distribuzione delle risorse, ma anche e soprattutto su quello che sta creando il maggiore stallo nella maggioranza, a partire da Italia Viva, ma come dicevo dietro c'è anche una fetta del PD e da quello che si capisce anche parte dei 5 Stelle, la struttura di governo del Recovery Plan italiano, che dovrebbe valere in tutto 196 miliardi di euro, la struttura di governo viene contestata, chiamiamo così, la task force annunciata dal Premier Conte, quindi sei manager, ognuno a capo di una missione con a disposizione 15 tecnici che riporterebbero poi direttamente al Presidente del Consiglio, al Ministro dell'Economia, al Ministro dello Sviluppo Economico, perché la critica è che una struttura tra virgolette parallela rischierebbe di esautorare i ministeri e, aggiungo io, anche di porsi in conflitto con i ministeri, perché non è detto che poi i dirigenti, i capi di gabinetto non mettano i bastoni tra le ruote. Soprattutto non capisco perché creare una nuova struttura parallela guardando quello che hanno fatto altri paesi, Francia e Spagna su tutti. Ne parliamo dopo il traffico. Focus Economia. Dunque, noi continuiamo a ospitare interventi e opinioni sul Recovery Fund e sul Recovery Plan, cioè sul piano, sull'organizzazione italiana, su come gestire, distribuire le risorse e controllare lo stato d'avanzamento degli investimenti. Allora, il tema è proprio sulla struttura, sull'architettura della task force, come si chiama in genere. Oggi Luigi Marattin di Italia Viva, ospite 24 mattina, è vice capogruppo alla Camera di Italia Viva 24 mattino con Simone Spezzi, ha detto che il documento è fatto solo di titoli. In quel documento ci sono poco più che altri titoli, non è che c'è un livello di dettaglio superiore, e infatti questo è un altro problema. Francia, Grecia e Portogallo hanno già presentato i progetti. Questo è un documento che ha ancora dei titoli, tra l'altro dei titoli che vorrei capire bene chi ha discusso, vorrei capire chi ha deciso che la riforma fiscale deve beneficiare solo i redditi da 40 a 60 mila euro, e comunque non si tratta di un processo finanziabile con Recovery Fund, ma sta in quel piano saltato fuori alle 2 di notte. Allora, professor Massimo Bordignon, che è direttore del Dipartimento di Economia dell'Università Cattolica di Milano, ma anche membro dello European Fiscal Board della Commissione Europea, buonasera. Buonasera a lei, buonasera. Dunque, due le critiche, dicevo. Una alla struttura, e faccio notare che in Francia, dove sono già avanti, loro riceveranno 100 miliardi, il piano si chiama France Relance da 100 miliardi e ingloba i 40 miliardi del Recovery Fund. Loro vogliono solo i trasferimenti, quindi non hanno bisogno di prestiti, visto che si finanziano tassi sotto zero tranquillamente su tutte le scadenze. E loro hanno deciso che c'è un commissario al piano, François Bayrou, ex ministro di istruzione e giustizia. Lui farà l'alto commissario, avrà 15 tecnici attorno, ma farà riferimento a un unico ministero, quello di Bruno Le Maire, ministro dell'economia e della finanza. In Spagna a guidare il piano sarà il consiglio dei ministri al completo, e anche loro prenderanno solo i sussidi per non aumentare il debito pubblico. In Germania invece sarà il comitato di coalizione formato dai rappresentanti dei partiti di governo. In Italia abbiamo questa struttura piramidale. Vorrei un suo commento su questo e quanto all'utilizzo dei soldi. Faccio notare quello che scrive oggi Gianni Trovati su Sole 24 Ore, che 88 miliardi su 196 andrebbero a misure che altrimenti dovremmo finanziare con risorse nazionali, e quindi in questo modo non aumentiamo il debito, sono misure con risorse già stanziate. Invece il restante va a investimenti pubblici 60% e il restante 105 miliardi e il 40% destinato a spese correnti, dei contribuzioni e incentivi. Allora, intanto un suo giudizio sulla governance, per come ne è uscita, quindi sulla struttura. Non è un po' troppo complicata? Il Presidente del Consiglio, due ministri, sei super manager e sotto in tutto fino a 90 persone, senza che esista però, o come in Francia, la figura di un alto commissario che riferisce al Ministro Le Maire, oppure come in Spagna è direttamente il Consiglio dei Ministri. Sì, allora io sono d'accordo, lo scrivevo appunto ieri sulla Voce, cioè secondo me qui abbiamo due problemi. Uno, dobbiamo assolutamente anticipare, semplificare e accelerare le procedure, perché ci sono tutti quei vincoli che richiedono che praticamente il 70% della parte dei 196 di un piano più generale, che in realtà sono 208 miliardi, debbano essere sostanzialmente spese entro il 23. e poi naturalmente dovremo spendere tutte le risorse il 26, quindi i tempi sono molto stretti, con le nostre procedure normali non ce la facciamo, abbiamo bisogno di una cabina di regia che segua, diciamo, i progetti dall'inizio alla fine. Questo mi sembra che sia acclarato. Un'altra cosa è poi la struttura di governance. Io sono d'accordo, e lo dicevo appunto nel mio pezzo, che così Covan secondo me non va, nel senso che non possiamo davvero, siccome proprio perché noi prendiamo tanti soldi e proprio perché facciamo tante cose, molte di queste robe vanno a interferire con la funzionalità normale dei ministeri, e quindi non ha senso di avere qualcuno che sia esterno al ministero, che risponde soltanto al ministro al primo ministro, comunque questo direttorio è stato messo lì, e che poi non parla col proprio ministro, perché sennò quel ministro che ci sta a fare. Quindi quella soluzione non va bene. Ma con il rischio anche di un'opposizione dei ministeri stessi, dei dirigenti ministeriali, capi di gabinetto, figurati. Ovvio, se tu gli porti via i poteri che non hanno nessuna cosa, noi ci stanno a fare, alla fine non ti danno neanche le informazioni e i dati. Quindi secondo me questa cosa va rimessa in piedi, esattamente come la vogliamo costruire non lo so, ci deve essere un referente unico, perché questo è richiesto dalle linee europee, appunto tipicamente è o il ministro delle finanze o è il ministro o è il primo ministro, dipende anche da come sono composte queste, diciamo, le maggioranze di governo, quanto sono robuste o quanto non sono robuste, però al di là di questo ci deve essere una struttura in cui devono essere coinvolti in qualche modo i ministeri, magari il commissario fa riferimento direttamente al ministero e poi guarda, io avrei fatto tutto sul ministero come finanze o la presidenza del consiglio, con un super commissario che si coordina con i vari ministeri, senza creare una struttura parallela di si sei manager magari, e sotto magari, 15 magari, ecco, qui siccome alcuni, ma anche detto, alcuni di questi ministeri non hanno le forze, cioè non hanno le competenze per tutto il processo che abbiamo fatto in passato, anche di riduzione delle competenze, quindi l'idea che si possa anche aggiungere qualche tecnico, magari spostandolo da altri ministeri per avere una struttura che sia in grado di operare, questo si può anche ragionare, ma questo è un altro discorso, da prendere dei manager esterni, metterli dentro, che poi sono esterni alla struttura e che non riescono a combinare. Quindi io penso che su quel tema della governance bisogna rimetterci le mani, però non vorrei neanche che tutta la discussione fosse sulla governance, perché questo è l'altro problema, che lì naturalmente ci sono anche aspetti politici, inutile facciamo finta di non saperlo, cioè di quei ministri lì che dovrebbero essere cari a tutto, guarda un po', ce n'è uno del 5 Stelle, ce n'è uno del PD, non c'è nessuno. Allora, andando alla seconda domanda invece, quello che riguarda la distribuzione dei soldi, noi abbiamo già chiarito che parte di questi soldi serviranno per finanziare spese senza utilizzare il debito pubblico, 88 miliardi, che sono la parte, diciamo, stranamente coincidono con la parte di sussidi, non di prestiti. Certo. Però complessivamente, e quindi tu dici quegli 88 me li uso perché altrimenti avrei dovuto fare più debito. Complessivamente su 196 miliardi, 49 andranno alla digitalizzazione, innovazione e competitività. Poi ci sono i vari dettagli, 10 per la innovazione e digitalizzazione della pubblica amministrazione, 35 per 4.0, 3 miliardi per cultura e turismo. Poi ce ne sono il piatto più grosso, 74 miliardi per la transizione ecologica e verde, anche qui divisi 6 miliardi impresa verde, 19 miliardi transizione energetica e mobilità, 40 miliardi efficienza energetica e riqualificazione degli edifici, 9 miliardi e mezzo tutela e valorizzazione del patrimonio. Poi ce ne sono 28 di infrastrutture, alta velocità di rete e manutenzione stradale 4.0, 23 miliardi, 4 miliardi per l'intermodalità, vado avanti con 19 miliardi per l'istruzione e ricerca, potenziamento della didattica e diritto allo studio e ricerca impresa e parità di genere, 17 miliardi, 9 miliardi per la salute intesa solo come innovazione tecnologica e telemedicina, non è che la salute abbia solo questo. Ecco, adesso vorrei il giudizio invece su quello che diceva Marattina, ancora non sappiamo i titoli, 40-60 miliardi di contribuzione fiscale, da dove arrivano. La ripartizione le è piaciuta invece? Allora, secondo me, io sono un po' singolare francamente, cioè non so come funziona esattamente il nostro governo, Marattina dica, io fino al giorno prima alle 2 di notte non ne sapevo nulla, avrei sperato che qualche minimo di condivisione in più all'interno dei ministeri ci fosse, infatti anche nel mio articolo ieri dico, ma come mai il governo... Sappiamo tutti ci stanno lavorando e l'ha tenuto segretato fino a questo punto, mi sembra un modo poco sensato. Può darsi ci fosse una paura che poi tutti quelli esclusi si sarebbero messi a urlare in precedenza, però adesso il teatro è lì e va discusso, quindi è importante che tu discutano. Il giudizio di Marattini è vero fino a un certo punto, cioè ci sono alcune proposte che sono ben dettagliate, per esempio anche tutta quella parte che riguarda la pubblica amministrazione, i nuovi meccanismi, il nuovo cloud per le pubbliche amministrazioni, i meccanismi, mi sembra quasi operativa. Altre sono anche abbastanza chiare, è ovvio, non c'è molto da dettagliare quando uno dice dobbiamo rifare l'alta velocità piuttosto che rifare le strade. Sì. Altre sono vuote, cioè nel senso che sono veramente di titoli, quindi lì vanno approfondite. Io spero che adesso ci sia il momento in cui si fa una discussione di carattere generale, adesso sì, naturalmente ci sono due aspetti che vanno qui considerati. Primo è che ci sono dei vincoli a livello europeo, per cui uno può anche dire io vorrei spendere tutto sulla sanità, non lo puoi fare, nel senso che il progetto impone che tu debba spendere, ora non ricordo i dati precisi, ma insomma tipo il 37% per la transizione ecologica, sì, no, devi spendere 25% per quanto riguarda invece il digitale. Anche quindi, perché sull'Europa, per la sanità, l'Europa ti risponde per la spesa sanitaria, non di digitalizzazione, non di telemedicina, c'è il MES se volete soldi a basso prestito. MES Covid, lo dico così, riapro le polemiche. L'ho interrotta, Bordignon. Mi scusi, no, l'ho interrotta io lei. Se vuoi metterci, giusto, c'è il MES, ma anche se non ci fosse il MES, tu dici, no, ma io non ne voglio spendere 9, ne voglio spendere 12, puoi benissimo prendere i soldi d'altra parte, mica sì, certo. Ti obbligano a spendere soltanto quei soldi lì. Quindi un po' quel piano lì, che chiaramente è stato discusso a lungo dai nostri tecnici con la task force, cioè a livello commissione, tiene un po' conto anche di tutti questi equilibri. Io a questo punto è il momento in cui farei è il momento in cui si deve fare una bella discussione, prima in Parlamento, poi a livello della società civile, per riempire quei buchi che ci sono. Ma questo è il punto di partenza. Cioè, sì, non sì. Cominciamo da capo a sparare a zero. Perché poi no, me non sto sparando a zero, dico solo. No, che... no, ma non dico a lei, dico in generale, perché. No, anche vorrei avere maggiori sicurezze. Cioè, secondo me bisogna partire dalla. Sì, dove li spendi, avere visione dove li spendi, un po' te lo dice già l'Europa, perché non hai tutta questa libertà. Struttura di comando e controllo, come dicono i militari, e andare avanti e mettere nel dettaglio, ascoltando, interagendo con i ministeri. Invece vedo che siamo ancora al preambolo, la cosa non mi piace. A questo punto speriamo che almeno il tempo a disposizione, più alto di quello di Francia, Spagna e anche Grecia, serva a dettagliare meglio il piano, perché non sia solo un problema di peso politico delle varie compagini della maggioranza. Grazie anche al professor Massimo Bordignon. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi.